I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Buonasera. Praticamente la cosa triste è il fatto che solitamente noi cominciamo sempre alle 9. Il fatto che in questo momento sono le 9:10. Sottofondo c'è ancora Pink, che è, diciamo, sempre la nostra sigla, pre-sigla d'apertura. E ancora non possiamo cominciare, sia perché sono soletto in questo momento, sia perché se vi racconto quello che ci è successo per arrivare in radio non ci credereste mai. Intanto siamo partiti in ritardo già da casa, siamo partiti a meno un quarto, quando di solito è mezza siamo qua, e abbiamo beccato la processione, la processione paesana che ci ha bloccato per completamente la strada, e quindi, diciamo, siamo rimasti bloccati aspettando la processione. Io sono sceso da bravissimo conduttore, sono venuto di corsa a cominciare la trasmissione anche senza mio fratello, che in questo momento sta cercando disperatamente un parcheggio, e quindi in questo momento sono un po' soletto e mi sento triste, anche perché da tantissimo volevo ricominciare Bazinga. Come tutti sapete, per un motivo o per un altro abbiamo smesso, soprattutto per motivi universitari, abbiamo smesso di farlo con la stessa frequenza. Prima hanno suonato, e tra l'altro sono anche portiere. Vi lascio con questa canzone e rispondo al citofono, sarà mio fratello. Sass. Sassa, ehi, ehi tu, ehi, come va? Guardate chi è arrivato alla mia sinistra. Prova. Ovviamente voi alla sinistra non potete vederlo. Ma che cos'è questa cosa tipo con la spugna sopra? Io non ne ho idea. Difatti cercavo di masticarlo. È un gelato, diciamo. Io pure ci ho provato, però sapeva tipo di polvere. È fastidioso, esatto. Anche perché ormai non è più nostro il microfono. Vabbè, saluta gli ascoltatori. Sei un bastaso. Questa asta tipo lunga. Sei un bastaso. C'è una specie di spinotto sopra pure. Ti ricordo... Buonasera ragazzi, è da tanto tempo che non ci si sente, non ci si vede. Vabbè, effettivamente non ci si è mai visti, però insomma con alcuni sì, con alcuni no, poi dipende. Non ci si ascolta, facciamo così. Ed è un po' di tempo che non ci si ascolta, questo qui mi piace. Come va? Non mi rispondete perché non funziona, non è un peer to peer, come si dice peer to peer? È un half duplex. Ecco, non è una tecnologia half duplex, quindi... La radio parla solo una volta sola, esatto, si so dire. In siciliano stretto. La radio parla e la radio si ascolta, a quanto pare. Dato che nessuno ci contatta. Salutiamo i nostri amici Martina, Marco, Francesco, Fabio, Calogero, Antonio, che ci stanno sentendo. E un bacione, ragazzi. Grazie. E credo che abbiamo anche altri ascoltatori nuovi. Gente che ho conosciuto nelle ultime settimane. Spero che mi contattino per dire: ti sto ascoltando, così ti saluto, altrimenti non ti saluto. raccontavo poc'anzi la nostra avventura, che siamo rimasti bloccati nella processione per evitare perché eravamo già in ritardo. Sì. Quindi noi abbiamo perso completamente i ritmi di Bazinga di un tempo. Esatto, effettivamente è stato un po' particolare, perché essendo abituati, non lo so, a una serie televisiva che è quella di The Walking Dead, una volta che abbiamo girato l'angolo della strada, abbiamo visto questa serie, esatto, di persone. Era era una mandria di zombie. Di mille zombie. Tutti che camminavano, tutti con lo stesso ritmo, esatto, lo stesso piano ritmo, piano. Nessuno che parlava. Io giurerei di aver sentito un... come fanno gli zombie di The Walking Dead. Probabilmente siamo devi rimasti sparargli alla testa. Esatto, siamo rimasti infinocchiati nel sparagli traffico. Sparargli alla testa e ti farò vedere che morirà. Dobbiamo trovare sicuramente qualche YouTube poop su Rick. L'avranno fatto, ne sono abbastanza sicuro. Dicevo, e siamo rimasti imbottigliati nella processione per arrivare qua. Quindi come se non bastasse, già eravamo partiti in ritardo. Processione, mezzo di zombie, abbiamo ucciso qualcuno sparando alla testa e finalmente siamo ritornati a fare radio dopo mesi e mesi. Quando l'ultima volta che l'abbiamo fatto è stato per l'Apocalisse. Ma penso che c'era un altro papa, ha detto. C'era un altro papa. Un altro governo. Era tutta un'altra storia. C'era l'Apocalisse. L'Apocalisse. C'era, è stato il giorno dell'Apocalisse, ovvero 21 dicembre. L'anno scorso. Siamo una vergogna. Cioè, che cosa è successo? È cambiato di tutto praticamente. È cambiato di tutto. Facciamo così, 2012. Io cerco 2012 su Wikipedia, spero che non mi trovi il film. Trovi il film 100%. Allora, noi siamo stati qui a dicembre 2012, giusto? Esatto. Il presidente del consiglio Mario Monti aveva rassegnato dimissioni nelle mani del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Nel 2012. E il Gangnam Style di Psy, come mi chiede, Psy. È il primo video della storia a raggiungere 1 miliardo di visite. Il 22 dicembre il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le camere. Vabbè, non è successo molto, diciamo, da quando non abbiamo fatto. Esatto. Fondamentalmente niente. Oppure esatto. No, a noi cosa è successo? È successo invece qualcosa all'associazione. Ah, mi sono dato 3 materie in più, ma per il resto. Queste qui sono cose personali che la gente non vuole sapere. Oppure sì, vero. Votate sul nostro sito, mandate un SMS al mio numero di telefono per chi lo conosce. Ditemi se vi interessa sapere quante materie ci siamo dati da dicembre adesso. È importante, dai. Per noi quindi, sì. Quindi dai. Via le telefonate, come dice Teo Mammucari. Sì, ma tu lo sai che da quando noi non facciamo radio, l'Irlanda ha assunto la presenza di turno dell'Unione Europea. Ah, davvero? Cioè, Marsiglia è diventata capitale europea della cultura. E addirittura, dopo che il test del DNA ha dato esito positivo, viene annunciato che i resti rinvenuti il 12 settembre del 2012 sono quelli di Riccardo III d'Inghilterra. Minchia, Riccardo III d'Inghilterra. Sì, allo stesso tempo, le elezioni politiche in Italia, le elezioni regionali sono state in Lombardia, Molise e Lazio. Che poi è una cosa interessante è proprio questo, il fatto che ci sono state le elezioni, una cosa interessante. Molti di voi, i nostri ascoltatori, quindi siete neo-votanti. Alcuni sono votanti veterani, votatori, come cacchio lo puoi dire? Votanti, votieri. E so per certo che molti di voi avranno votato Beppe Grillo, come ho fatto anch'io, purtroppo. No, il voto è segreto. Vabbè, ormai l'ho detto, perché l'esito del televoto è che vogliono sapere tutte le nostre, diciamo, aspirazioni, cose personali. Quindi vi dico che noi due, pure Gabriele ha votato PDL. No, invece. No, io ho votato Forza Nuova, perché sinceramente Gabriele vota abbiamo Forza bisogno Nuova. Del cambiamento proprio. Esatto. Ed è interessante proprio, oltre questo, il fatto che tutti quelli che ho sentito, ragazzi e amici, volevano fare un modello siciliano anche all'assemblea, come l'assemblea siciliana, l'assemblea regionale siciliana, anche in scala nazionale. E evidentemente la cosa non ha funzionato, perché Bersani ieri è stato ammazzuliato, ieri o l'altro ieri è stato ammazzuliato in diretta streaming. Ammazzuliato non si può sentire. È stato ammazziato. Mazziato, sì. Mazzuliato è più romantico. Sì. E quindi diciamo un pochettino tutti siamo rimasti a bocca aperta. È finita la pacchia. Alcuni di noi se ne stanno pentendo, altri no. Però boh, fondamentalmente diciamo ormai le cose sono fatte. Questo governo è quello che ci dovremmo portare avanti per un altro po'. Ma noi ce ne freghiamo fondamentalmente. Infatti. E che cosa facciamo quando ce ne freghiamo? Ci ascoltiamo una canzone. Pensiamo sempre al sesso, soprattutto gli praticamente uomini. Una cosa che è bella, no? La cosa che è bella del sesso è che lo puoi fare anche da solo, lo puoi fare in due, ma lo puoi fare anche in tre. In tre, che male c'è. sai che c'è. Mi piace a te. Chi fa da sé non è dei tre, tre, tre, tre, tre. E io credo fermamente nell'amore, ma è l'amore che non crede più in me. Potrei dirmi con chi ti pare, ma non farlo con un DJ. Tutti allati alle tette della tela, allettato da tutte le litanie italiane. Per amore devi fare rumore, io ho tradito perché ti amo. Come scusa lo fai solo per... Ma non devi diventare mambizio, io sono uno svizzero, so già che mi divertirò. E se ancora non ho messo giudizio, con tizio, con taglia, sopranio, la farò. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Non ti posso dire che succede quando arrivo in città. Amore c'è a farlo in re. Che male c'è. Che male c'è, che male c'è a farlo in 10.000. Che male c'è a farlo in 3. Chi fa da sé, chi fa da sé, chi fa da sé. Non fa per me. Non ti posso dire che succede quando arrivo in città. Ben ritrovati. Ma sì, ma lo sai una cosa che mi sto accorgendo adesso proprio in sai una cosa che mi sto accorgendo adesso? Funziona grammaticalmente. Cioè, funziona grammaticalmente. Lo sai una cosa che mi sto accorgendo adesso? No. No, non funziona per niente grammaticalmente. Grazie comunque dell'interazione. Sappiamo che ci ascolta Calogero. Ciao Calo. Sappiamo che ci ascolta Vincenzo Luongo. Però comunque vi saluto piano piano a tutti. Anche esaurito su... Oltre a Calos dobbiamo salutare altre persone. Stefania, Antonio. Stefania chi? La conosco. Stefania Capraro. Sì, dai. Ah no, è Stefania Capraro. Vabbè. Stefania, se vuoi ci facciamo ziti questa sera a disposizione. In questo momento non può rispondere perché si è messo offline. Sì. Sicuramente per entrare solo nel sito di Radio Sisma. Gli abbiamo mangiato tutta la connessione. Sì, probabilmente. Sicuro, va benissimo. 100%. Va benissimo. Di che cosa stavamo parlando? Non lo so, l'ho dimenticato effettivamente. Che cosa stavo dicendo? Ho detto, non è una cosa che non ha. Che cos'era? Boh, l'ultima cosa di cui parlavamo era di rapporti sessuali multipli. Ah, di rapporti sessuali multipli. Non lo so. Ah, ecco, non mi è venuto in mente, non per i rapporti sessuali multipli, ma il fatto che noi ormai siamo completamente disabituati a fare radio. Ma mettila la base, va. Esatto, è questo, per questo non facevo partire la base, ecco da dove mi è venuto l'intisa. Che cosa, dimmi. Noi non abbiamo messo la sigla, Gabriele. Noi non abbiamo messo la sigla. Non abbiamo messo la sigla. Non abbiamo messo la sigla ed è da 27 minuti che facciamo il programma e non abbiamo manco messo la sigla. E vabbè, la faccio io. Bazinga. No, facciamo finta che quello lì, questo qui è stato Zinga. Il pre. Facciamo finta che è l'anteprima e mettiamo la sigla in questo momento. Via la sigla. Bazinga. Again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Ben ritrovati su Bazinga. Benvenuti su Bazinga. Finalmente ci rincontriamo. Ma che cos'è questa canzone? È il sottofondo della canzone di prima. La canzone, vabbè, ci può stare. È anche bella, diciamo, dal punto di vista. No, adesso che abbiamo, chitarra, adesso che abbiamo messo la sigla, non ti senti più pulito con te stesso. Ah, sì, è come se ci prendevamo l'ostia senza confessarci. Cioè, è come se vai in bagno e non ti pulisci il culo. Esatto. No, è come se vai in bagno e non ti pulisci le mani. Lo sai che un uomo su sei lo fa. Sì, sì, era... aspetta, l'ho vista in un film questa cosa. Che era quello là, alla fine arriva Polly, che è uno dei film più stupidi dell'umanità, sì. Diciamo, però funziona alla grande anche lui. Quindi un uomo su sei non si lava le mani dopo essere andato in bagno, un uomo su sei non mette la sigla dopo aver cominciato... Sapevatelo. Sapevatelo, un uomo su sei non mette la sigla dopo aver cominciato la canzone. Quindi ci ascolta anche Diabolix. Ciao Diabolix, Diabolix è un nome che ho inventato io per lui proprio. È bello. Appositamente perché lui ha una mente diciamo diabolica, contorta, quasi criminale, no? E quindi per questo senza, Diabolix. Puoi anche togliere il quasi, lui è un criminale esatto, di primo ordine. Un criminale, cosa sì. Che tra l'altro hanno geneticamente tutti i residenti in quella zona particolare del Trapanese. Infatti, a Dabanna Uciume. A Dabanna Uciume, quindi sono tutti particolari. Quindi dall'altra parte del fiume. Per tutti quelli che non sono siciliani che ci ascoltano, esiste gente particolarmente malvagia. Esattamente proprio nella zona dove abita Diabolix, anticamente sono diventati ricchi perché facevano fermentare il vino, non era vino, era acqua zuccherata. Vendevano l'acqua zuccherata con lo zucchero fermentato e sono diventati tutti ricchi. Bravo Giovanni, ecco, che ti porti... quindi Diabolix c'erano anche prima nella esatto, zona, cioè no? Diabolix ancora prima che lo inventassero, diciamo, quelli dei fumetti. Esatto. Giovanni era già, diciamo, mi raccomando, ascoltateli. Marco Meli ci sta ascoltando anche lui. Vedi? Ciao Marco. Finalmente piano piano stiamo ritrovando tutti i nostri vecchi ascoltatori. È bellissimo sentirvi, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. A Calogero l'abbiamo salutato, mi sembra di sì. Calogero, sì, l'ho salutato io, Calos. Ho detto ciao Calogero, Calos. Tra l'altro è allo studio e dice che hanno smesso le prove. Hanno cacciato tutti fuori e ci stanno allora, sparando a palla nella piazza di Menfi, gremita di gente che sta ascoltando solo sì, noi. Sì, sta ascoltando Bazinga tutta Menfi. Quindi facciamo... cioè, salutiamo Menfi. Cogliamo l'occasione per salutare Menfi e i Five Drop. In particolare a cui diciamo vogliamo rivolgere un saluto. Ora mi ha detto Suka Gay, quindi non so a cosa ti riferisci, ma non credo di aver fatto, diciamo, sfoggio di atteggiamenti omosessuali. Cercate però. Su Facebook Five Drops e li troverete questo sì, aggiungete. Grandioso gruppo menfitano. Esatto, esattamente. Però il peggiore è sicuramente Calogero. Perché, esatto, che fu uno schifo, tra l'altro pure il nostro coinquilino. Comunque, sì, ritornando al discorso precedente, altre novità interessanti che sono successe. Un'altra cosa proprio interessantissima è il fatto che, di cui parlavamo ieri al pub, se ti ricordi, è una cosa particolarmente interessante, ovvero Battiato. Che cosa ha combinato Battiato? Perché praticamente... il nostro conterraneo. Io devo vedere se riesco a trovare questa intercettazione. La mandiamo per chi non lo sapesse. Perché le notizie, diciamo, sono molto vaghe. Battiato. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. No, Troia. Vediamo. Mandiamo un altro sottofondo, che è questo. Il nostro solito sottofondo, mentre cerchiamo questo di Battiato. Franco Battiato, Telegrass, no. Assessore Toto. No, devi trovare le intercettazioni. Ma le hanno proprio date queste intercettazioni così ai giornalisti? Tutti sì. Possono averli... Esattamente, revoca Grasso, revoca, questo qui dovrebbe essere. Vediamo se si sente pure l'intercettazione. Abbassa la musica. Sento il dovere nella qualità. Ah, questa è proprio la revoca. Siciliana e cittadino rispettoso delle istituzioni della Repubblica Italiana e dei suoi rappresentanti, esprimerle fermo dissenso e riprovazione per i contenuti e i toni di quanto affermato negli scorsi giorni da Franco Battiato nei confronti di parti politiche e singoli rappresentanti del Parlamento nazionale. La gravità delle dichiarazioni dallo stesso formulate, che non possono essere emendate... Vabbè, questo qui fondamentalmente è il fatto, cioè nel senso, tipo l'Assemblea siciliana quando l'hanno rimosso dall'incarico, forse questo qui invece è proprio, perché del Fatto Quotidiano, credo sia questa, perché il Fatto Quotidiano è quella che l'ha pubblicato, il fattoquotidiano.it. Inaccettabile. Dovrebbero aprire un casino e farlo pubblico. E allora uno è anche contento, no? Invece che farle stare in strada. Lì sarebbero perfette. O oppure quelle che difendono alcuni dicendo delle cose quando invece 2 o 3 anni prima avevano detto ci vuole così, stesi in orizzontale, e non era mai andata alle feste, non so come dire. Però lei diceva, e questi giornalisti italiani che non sono come quelli inglesi, che non sono come quelli americani, che attaccano chiunque, no? Qui si mette un microfono, uno dice una sciocchezza e questi stanno zitti. Ed è quello che è successo, ed è quello che è successo a lui praticamente. Sì, esattamente. Lui ha detto questa cosa in un'intervista. Io pensavo fosse un'intercettazione, perché io l'ho vista registrata. Invece lui ha fatto una dichiarazione pubblica. Effettivamente. Però, cioè, però poi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa, sì, però cioè, nonostante Crocetta sia stato, diciamo, irremovibile. È stato irremovibile anche perché lui è irremovibile. È fondamentalmente qualcosa che ci vuole. Una persona come Crocetta, anche a livello nazionale, una persona irremovibile che rimane fermo alle sue idee e che fa qualcosa sul serio e che si prende in mano situazione per situazione ogni cosa che avviene, cosa che evidentemente ha fatto questa volta. Però io sono un po' meno d'accordo, diciamo, anche perché dire troie le troie non credo sia offensivo, no? Esatto. Non lo so. Può anche aver avuto ragione, però sicuramente poteva tenersele per lui, diciamo, queste considerazioni. Certe esternazioni sì, perché fondamentalmente infatti quello che ci dice pure Diabolix, che anche per essere, anche se è una persona cattiva, lui in realtà è a favore di Battiato, dice: ha parlato per 3 ore, l'unica cosa che è passata alla stampa è stata la frase onorevoli troie. Esatto. Hai perfettamente ragione, nel senso, poi ovviamente i giornalisti per vendere, per fare notizie, anche quello che stiamo facendo noi in questo momento, stiamo parlando di questo argomento perché è quello che fa più scalpore. Magari ha parlato, non lo so, di quanto erano buoni i pomodori di Pachino. Noi ovviamente non parliamo di quanto erano buoni i pomodori di Pachino, parliamo di quello che fa più scalpore. Poi naturalmente, come ogni cosa che fa scalpore, c'è stato il boom di link su Facebook su Battiato. Assolutamente sì, ce n'è una che dice, c'è una vignetta in cui c'è lui, diciamo, con una testa enorme, dice: avere troie, papponi e mafiosi nel Parlamento è politicamente corretto, basta non chiamarli per il loro nome, altrimenti scandalizzi e te la pigli nell'inner saug. Io ce l'ho inner saug, lo sai, la dobbiamo mettere inner saug. Allora Franco, noi ti perdoniamo e la pensiamo come te. Non solo ti perdoniamo, siamo dalla tua parte. Se vuoi venire a fare venire nell'amministrazione comunale di Santa Margherita, qui nella remota valle del Belice, noi saremo ben felici di accoglierti. Esatto. E puoi dire tutte le troie che vuoi, per quanto mi riguarda avrai sempre il mio voto. Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Kindere sauge, da sinnere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato. Eccoci ritornati qui. Incredibile, anche perché si sente pure l'eco. Bene, perché eravamo alla sprovvista, ascoltavamo la canzone come imbecilli e parlavamo tra di noi e non ci siamo accorti. Comunque sia, grazie Battiato per averci regalato questa bellissima canzone che abbiamo sentito in diretta gratuita, se ti ricordi, a Palermo. Esatto. E c'era pure anche il nostro Calogero con noi, grande Calogero. Un saluto a Antonio Verde comunque. Un saluto a Antonio Verde e anche al nostro presidente carissimo, i miei seguiti, vostra maestà Onorio Di Giovanna, che ci ascolta da Milano, che mi dice: ciao ragazzi, siete mancati a me, a tutti gli ascoltatori di Radio Sisma. Ciao Onorio. Un ritorno trionfante, anzi bionfante, considerato che siete in due. Grazie Onorio per averci regalato questa meravigliosa battuta. Ovviamente, visto che è da tanto che non uso questo tasto, sarà un pochettino lento, però è un ritorno. Onorio dice un ritorno bionfante. Ci stava. Proprio era da tanto tempo che non sentivo questo sad trombone. Esatto, è da parecchio tempo che non si sentiva. Ed era, infatti, anche il tasto era un po' irrigidito. Sai che cosa ci hanno fatto sul 7? Perché è il mio numero 7. Qualcuno mi viene a dire: vi sento male, vi sento a scatti. Quando già sono due, quindi probabilmente c'è qualche problema. Se avete problemi a sentirci, sentite a scatti, aggiornate la pagina, quella on air dove avete cliccato. Premete F5 oppure Ctrl R, oppure la freccetta, quella che si arrotola su se stessa, il serpente che si mangia la coda con la testa a freccetta, insomma. Premete e funzionerà alla grande. Però dice: se non ci sentono, come minchia fanno a capirlo che devono fare questa cosa? Certo. Ora piano piano ve lo vado scrivendo. Dovete No, comunque sia, un altro argomento di cui volevo parlare, ovviamente come abbiamo sempre fatto, è stato quello di ogni settimana prendere la discussione le discussioni più importanti, i top trend da Twitter. Battiato è stato uno tra i top trends della settimana precedente. Un altro top trend che a me era piaciuto particolarmente era "Please Justin Bieber come back to it". No, questo qui però è collegato, ovvero un altro diciamo argomento che durante la settimana è stato toccato abbastanza su Twitter. Io una mattina mi sveglio e vedo scritto tra i trend: vaffanculo studio aperto. Ho detto: finalmente l'Italia si è svegliata. Circa 1.000.000+ di persone avranno scritto vaffanculo studio aperto. Sa che cosa è successo? E comincio a dire: magari avranno passato qualche notizia stupida al solito, qualcuno si sarà accorto che parlano sempre di gattini e cagnolini a posto di veri problemi. Vado a leggere e trovo questa notizia, vabbè, che ti invito a leggere, te la passo su Facebook. Sì, vediamo. Scrivimi sblegla, no, qua ci sei, t'ho trovato. Leggi questa notizia che ti metto la tua bellissima sigla da lettura di notizie. Ecco che si sta caricando e la sigla è tutta per te. Niente. C'è scritto niente, punto. È vero. Non è possibile. Niente. Niente. Oddio. Vabbè, niente. Allora la leggo io. Niente. È bellissimo. Se devi fare, fai lo screenshot e lo pubblichi. Niente. Perché io passo una notizia a Gabriele che da me mi segue perfettamente. Niente. La notizia è la seguente. Niente, ma anche niente. Perché niente è niente. Ascolta, Angela Oran 99, ovvero una ragazzina nata nel 99. Tu ti immagini che esiste gente nata nel 99? Terribile. Esiste gente nata nel 99. Immaginare quelle sono nate nel 2001. Ed è senziente. Cioè, nel 99 già scrive su Twitter. Quanti anni ha uno nato nel 99, per curiosità? 11 anni meno di me, quindi ne ha 13. Caspita. Oddio, che sogno vecchio. Comunque, dice, vaffanculo, studio aperto. Justin passa dagli omogenizzati ad essere un bravo ragazzo, un cattivo ragazzo. Adesso passi tu da studio aperto. Justin Soul, cioè, nel senso, tipo, studio aperto, ha detto questa frase. Ovvero, Justin Bieber, come cacchio si pronuncia, non lo so, passa dagli omogenizzati ad essere un bad boy, un cattivo ragazzo. Minchia, se rapi un cielo, ovvero un casino di persone, di ragazzine dal 99 in giù, forse, spero non in su, ovvero, tipo, spero che quelli dal 92 in poi non ascoltino questa schifezza. Hanno cominciato a parlare malissimo di studio aperto. Ma speriamo che almeno in qualche cosa sia servito. Anche perché successivamente la stessa zona, diciamo, la stessa tipologia di donne, ovvero le believers, sono state accusate anche di cyberbullismo. Questa è un'altra notizia di cui parleremo dopo. Gabriele mi indicava che c'è qualcosa. Che cosa hai lì, Gabriele? Oh, una descrizione semplicemente di studio aperto, no? Ah, meraviglioso. Vediamo che cos'è studio aperto per chi di voi, pochi eletti, che non lo sapesse, siete degli eletti, perché purtroppo sappiamo tutti cos'è studio aperto. E ti rifaccio ripartire la tua canzone preferita per leggere notizie. Sì, schiarisci la voce. Prova. Va benissimo, one, vai. 1, 2, 3, 4. Studio aperto è un reality show. Scusate, ci dicono alla regia che dovrebbe trattarsi di un telegiornale in onda tutti i giorni su Italia 1, specializzato in tette, culi, mostri e meteo. Il tutto corredato da messaggi subliminali. In teoria si tratterebbe di un telegiornale nazionale, in pratica si occupa solo delle notizie che riguardano Milano e provincia, se non consideriamo le foto del culo di Emanuele Arcuri e i servizi su Knut. Comunque, è però un telegiornale che costa molto poco a Mediaset, perché i giornalisti sono improvvisati ed ogni suo servizio è in realtà un video di YouTube. Riguardo i servizi sul meteo, poi, riguardo il meteo, poi, studio aperto parla da aprile a ottobre di caldo asfissiante killer. Non si registrava un'arsura simile da 340 anni. E da ottobre a aprile di freddo glaciare killer. 120 gradi sotto zero. Non si registrava un freddo simile dall'era della glaciazione. Altre volte le notizie hanno toni più moderati, del tipo: è allarme! Nelle Alpi nevica a gennaio. Oppure: emergenza, è il 12 luglio e fa caldo. Cose del genere. Studi scientifici hanno dimostrato che studio aperto è l'ultima frontiera della lobotomia, con cui il suo mega direttore galattico, re Silvio Berlusconi, cerca di allietare il suo popolo senza farlo pensare a cose preoccupanti, anzi, senza farlo pensare affatto. Esattamente. Abbiamo alcune persone che hanno, diciamo, espresso il loro pensiero su studio aperto. Abbiamo alcune citazioni. Andrebbero trascinati in strada e fucilati, diceva Gandhi su studio aperto. E per dirlo Gandhi vuol dire che c'è qualche problema serio. È il modello di studio a cui voglio aprire le menti dei giovani con la mia riforma, diceva la Gelmini ai tempi in cui era al governo, diciamo. È la trasposizione mediatica di chi, Novella 2000 e Teletutto, che è chiunque su studio aperto. Poi quando comincia il telegiornale, chiunque mentre guarda studio aperto. Addirittura c'è una persona che noi tutti conosciamo che ha detto: spara più cagate di me. Indovina chi è stato? Proprio lui, proprio Silvio, diciamo. Silvio Berlusconi ha detto: spara più cagate di me. Effettivamente ha ragione. Allarme, allarme. Poi un qualsiasi giornalista di studio aperto all'apertura di un qualsiasi... Ma servizio. Se ci fai caso è vero, se ci pensi, lo dicono vero, allarme. Allarme caldo, allarme Justin Bieber. Probabilmente sì. Avranno aperto quel servizio di cui sopra, diciamo. Ora e adesso il servizio sulla Brambilla, i nostri amici a quattro zampe mutilati, presi da un video su YouTube. Questo è un giornalista dovrebbe dirlo. Studio dovrebbe... aperto, che parla di questioni serie e importanti, perché... Anche perché sempre. Gabriele, tu non te ne... Quando io ti aspetto a casa, che tu ancora sei a lezione, io me lo guardo studio aperto, l'ho visto qualche volta purtroppo. La notte mi col cilicio lo stringo per non lo so, mi flagello per questa mia mancanza di non lo so. E che cosa succede? Ho visto che non solo fanno i soliti 25 minuti di TG che facevano prima, fanno anche Studio Aperto Magazine, che è una cacata ancora maggiore. su che parlano solo di animali, di gnocca, di delle tette della Canalis che forse sono rifatte, ed è una cosa alquanto fastidiosa, voglio dire. Purtroppo continua a esserci Studio Aperto e ci sarà ancora. E un nostro ascoltatore che ci ascolta sempre, Marco Meli, mi ha chiesto All the Line, come non mandare All the Line. All, no? The Line dei Toto. Ok, la mando a te. Te la dedico, Marco, perché fondamentalmente, anche se è un Nexus 4 e io no, ti voglio bene. All the Line. Questa era Old Line per Marco Meli. Dei Toto, dei Toto. Quindi sì, praticamente che succede? Marco Meli, io ho detto che voglio bene a Marco Meli anche se ha un Nexus 4, questo disgraziato. Mio fratello è andato, si è comprato l'S Advance e tu no, effettivamente ci perdi lo stesso. Infatti. Quindi non vi posso vantare di nulla. Marco Meli dice, anche io voglio bene alla gente meno fortunata di me, e io gli rispondo con un bel soca, così in amicizia, diciamo. Poi mi rendo conto che ci ascolta anche nuove persone di cui parlavo all'inizio della puntata. Chi è chi è? Gente che ho conosciuto su social network scrausi come Badu, una ragazza davvero interessante, anche perché ci ascoltava sotto la doccia e penso che sia la prima persona al mondo a farlo. Come si fa? Non ne ho idea, ma ci devi spiegare. Monica che ci ascolta, non so se sei a Palermo, insomma, ci ascoltava da sotto la doccia con, non lo so, strumenti particolari, magari ha chiuso il telefonino dentro un sacchettino di plastica. Non so cosa, insomma. Insomma, sì, a proposito del telefonino, se volete far parte della, appunto, della trasmissione, volete parlare con noi, insomma, dire la vostra, potete chiamarci al numero 0925 33261, qui è il numero di Radio Sisma, e potete partecipare, oppure potete aggiungere Radio Sisma su Facebook. No, non su Facebook, su Skype. Ah, su Skype, vero. Abbiamo le chiamate via Skype. Se qualcuno ci vuole insultare in diretta, noi siamo ben volentieri accetti. Accettiamo ben volentieri gli insulti in diretta, anche via telefono. Radio.sism. Radio.sism, esatto. E ci ascolta anche il nostro grandissimo Tostas, Gabriele. Vuoi salutare Tostas? Ciao Alessandro Tostas, un saluto Tostas particolare da Santa Margherita. Finalmente vi sento bene, Tostas è qui, quindi compattiamo. Io ho scritto, quindi dobbiamo amarlo per questa sera, il nostro Tostas. Tosta è qui. Tosta è qui, quindi va benissimo che si sente. Mi piace che lui ama il suo appellativo. E la cosa bella che è nato appunto perché, per il fatto di cui ti raccontavo prima, che lui non sapeva distinguere tra un tostapane e un microonde. Ho detto prendi le sigarette e sono sul tostapane. Lui è andato al microonde e da lì in poi rimase tostapane. Il nome di tostapane, l'appellativo tostapane. Esatto. Ah, c'è un'altra, forse ci ascolta Valentina, dimmi se ci senti nostra voce, ja wunderbar, perché lei tra l'altro si chiama Valentina, in realtà si è scritta, guarda, su Twitter, su Facebook, al nome Valentina Narantazzo. Perché? Perché ha la stessa pronuncia del nostro ex papa. E è un omaggio al papa emerito, che è un emerito proprio. È un emerito papa? È un emerito papa proprio. Esattamente. Ah, dice, con le casse non servono cose così assurde, Monica ci riprende. Ovvero, ascoltarci sotto la doccia, basta alzare il volume delle casse. Siamo due imbecilli, io faccio pure ingegneria informatica. Era semplicissimo. Non era così complicato, ci puoi ascoltare sotto la doccia mettendo le casse. Grazie, Monica, per questa precisazione. Invece, Valentina Arantazzi, ci dice che... non è vero che l'ha fatto in omaggio al papa, ma noi non ce ne frega niente se tu l'hai fatto per il papa o meno. Io ho usato questa scappatoia per introdurre il nuovo argomento. Nuovo argomento, papa XVI si è dimesso, ragazzi. Non so se lo sapevate, ma non c'è più papa XVI, ce n'è un altro. Noi prendiamo notizie vecchissime. No, vero. Noi non facciamo programma da Bazinga Apocalypse, ovvero il 21 dicembre, come dicevo all'inizio. Sì. Abbiamo tante notizie arretrate. Ma comunque non so se lo sapevi, la Juve ha perso contro l'Inter. La Juve per Santorini 3-1 è finita. 3-1, ah vero, 3-1. Dato che minchia applaudi là, che non lo so. Cioè, stato, ora vi facciamo il bucio, come si suona. Abbiamo un interista qui. Abbiamo in un interista sala, e vai fuori, bene, no? Vai fuori, lei ne vai fuori. L'interista non me la accetta. Radio Sisma è Juventina. Radio Sisma è Juventina. Non so se questa affermazione no, stavo può comportare qualcosa. No, particolarmente. Cioè, abbiamo perso 8 ascoltatori dopo che ha detto Radio Sisma è Juventina. Quindi diciamo, mi suggeriscono dalla regia che non è tanto buono, non è una bella idea chiamarci in radio al telefono, ovvero 0925 33 261, perché qualche volta dà problemi. È meglio chiamarci via Skype, perché Skype proprio spacca di qualità. Quindi se aggiungete radio.sisma, radio.sisma, giusto? Radio.sisma. Radio.sisma sì. Su Skype, così possiamo, non lo so, ci insultiamo a vicenda, vi facciamo uno scherzo al telefono noi. È morto il tuo cellulare, mi sembra. Il cellulare è defunto. È defunto il tuo cellulare perché oggi hai comprato quello nuovo. Lo so, Samsung Galaxy S Advanced. Se l'è sentita, poveraccio. Quindi Gabriele, avevi da lì da ricominciare a parlare del nuovo papa? Ah, papa Ciccio. Ciccio lo chiamano Er Papone. Er Papone, perché Francesco. No, non ho nulla da dire perché non ho nulla da leggere. Sto semplicemente dicendo che abbiamo questo nuovo papa, Er Papone. Diciamo è chiaro che Francesco è un omaggio, un chiaro omaggio a Francesco Dotti, perché appunto esatto. Per tutti i tifosi romanisti che abitano, insomma, che sono cattolici, non so se ci avete fatto caso, ma Bergoglio e anche, cioè, se tu aggiungi un è Birgoglio. Ah, Birgoglio. birra, sì, come birra. L'ho vista questa perché cosa. Perché non so se avete mai bevuto la Franciscaner, ragazzi. C'è Papa Francesco con una, cercate, con un calice in mano. Cercate Franciscaner su Google Immagini, troverete un'immagine proprio del Papa che sta bevendo, sorseggiando col tastino, quello lì, non l'altro. Se non si apre col tastino, scendete giù e aprite. Quello lì. Scendete giù e aprite se non si è aperto. Mi sta venendo abbiamo più ascoltatori, cioè abbiamo più persone qua che ascoltatori in questo momento. Esatto. No, non è vero, vero, quello mai, però sì, diciamo. Comunque è uscita questa storia del Papa Francesco, il Papa umile, il Papa buono, il Papa, diciamo, lavapiedi. Esatto, lavapiedi, però naturalmente poi su Twitter si è dimostrata un'altra persona. La cosa bella da leggo, infatti, è che subito dopo proprio lui si è affacciato e ha detto ciao, io come a Tappois, e se n'è ritornato palermitano, dentro. Palermitano, ovviamente, ha fatto un account Twitter di Papa Francesco. Voi andate su Twitter, non so quanto sia ufficiale, cercate Pontix Francesco su Twitter e troverete questo Papa che, insomma, twitta molto spesso. Per esempio, uno dei tweet che c'è scritto è Poro Benny sarebbe Benetto Sidilissimo. Poro Benny, comunque no, criticate, sta una pezza. A sera se beve il brodino e io me faccio l'aperitivo a Borgo Pio, me fa senti in colpo. Beh, io ricordo che era meravigliosa invece quella, proprio subito dopo l'uscita, e fa oh, non dite che mi sono chiamato Francesco per tutti, perché io sono laziale. So da Lazio. So Palazzo. Il 24 marzo qua è scritto Domenica delle Palme. Sapete che vuol dire? Che tra una settimana è Pasqua, io non mi sono ancora organizzato per Pasquetta, giù da ballerino. Effettivamente si vederebbe bene. Ciao Emi. Ora dobbiamo ciao salutare a tutti gli ascoltatori di Bazinga. Okay, grazie, che sei dolce. Intanto mentre noi salutiamo Emi, grazie. Vi mando una canzone che proprio non c'entra proprio niente. Che è una canzone che quale ti mando? Ti mando questa che a Gabriele piace, vai. Sala che te mannai, Gabriele. È bella. Smell. trust in who we are. No, nothing else matters. Stacco, stacco, stacco. Stacchetto, vai. Bazinga, metti. Ma tu non era per dire questo. Tu, non, tu non me lo dici mai quando stacchi la... Mi chiamavano l'alza microfoni a tradimento. Ma sei, sei un bastardo. Comunque Papa Francesco ha detto: azzozzi, adesso non è che me fate lavare tutti i piedi, non ve li vengo mica a lavare tutti. Ma io speravo, diciamo, in questa settimana di spiritualità anch'io di aver lavato i piedi da... Ma proprio purtroppo questa sera me li lavai da solo prima di venire in radio. C'è stato pure un commento giorno 26 sul tempo che, diciamo, la primavera che tarda a arrivare, tardava. Che proprio ho scelto una canzone bruttissima. Papa Francesco, vabbè, ci sta. Lascia, chi se ne frega. Papa Francesco ha detto: a primavera se sta popo a sbagliare. Se sta ha detto, ma proprio oggi che avevo lavato la Papa Mobile. No, e seguitelo, come si chiama? Com'è il chiocciola? Allora, chiocciola Pontix Francesco. E Pontix, non Pontifex. Sì. So, quello affacciato al barcone, so argentino come il tango, Messi e Maradona mi spicciano casa. So Francesco, checco, ce chiami tu, fratello. Ah, perché era uscito questo fatto che tutti su Twitter dicevano: ah, Papa Checco. Che cosa ci fosse di divertente, non lo so. Effettivamente anche il fake del Papa si è offeso, sì, di sì, questo epiteto, di questo soprannomignolo. Ci fa ci tiene a dire che è un iddio supporter, perché c'è anche Dio su Twitter, non so se lo sapete. Infatti c'è Dio e c'è anche il diavolo, c'è e la morte. Dio è il diavolo. E certe volte si parlano, dice: ma perché tu questo? Sì, Dio e il diavolo parlano su Twitter. Per questo il peccato Twitter originale, tutte queste storie. Dico, per questo Twitter è un posto figo, invece . Facebook è triste, perché su Facebook... Ah, ora su Facebook si è trasferito Dio, non so se lo sai. Sì. Dio di Twitter si è trasferito Bellissimo. Su Facebook, quindi meraviglioso, proprio a go-go. Vi cito uno degli ultimi tweet di Dio, ha scritto: visto il grande successo dello scorso anno, anche stavolta ho impostato il clima su Shuffle. Bravo Dio. Ci teneva Dio a dirlo. C'abbiamo il jingle dell'applauso, ma io lo faccio a mano, perché Grillo è ancora un grande comico, il partito degli haters che si lamenta dei troll è qualcosa che fa venire mal di pancia dalle risate. Questa non mi piace tanto. Nessuno, diciamo, ha parlato del grillino Vanone dei vaccini. Vabbè, questo è più che altro politica. Dio si occupa anche della politica italiana. La politica italiana, diciamo, è strano, sì. È strano che si occupi di cose non strane. Però, diciamo, Dio è dovunque. Ci sarà anche un Dio inglese, un Dio, non so, di altre parti. Si occuperà della scritto un'altra: un angelo mi ha rubato il cuore. Hai preso la targa, mi ha chiesto l'amore. Gli angeli non hanno la targa, ho detto io. Cazzi tuoi, allora. Questa non l'ho capito. Grazie a Dio di queste tue continue frasi romantiche. Un'altra cosa che ci facevano notare poco fa, quando abbiamo fatto quella lunghissima pausa musicale accompagnata dai Metallica, che Francesca, una nuova ascoltatrice di questa sera, ha definito troppo scontato mettere Metallica. Purtroppo abbiamo questo in scaletta, mi dispiace. Ora cercheremo anche il Rush. C'è stato imposto dall'alto. Qualcuno ti manda pure a fanculo. Io non voglio... Ambasciatore non porta pena. Dice che dire secondo te Metallica merita un fanculo. Quindi io non... ambasciatore non porta pena, ripeto. Comunque ci faceva notare che c'era una delle nostre groupies qua dietro, che era affacciata alla finestra, e ci faceva anche il rosario. Ci faceva notare che era molto simile al fatto della monaca. Tu l'hai vista la monaca? Ah, la monaca al capo di Palermo. La monaca al capo, che è una cosa meravigliosa. Ora se cerco c'era un video No vabbè, si vedeva che insomma... No, c'era su video, c'erano le interviste YouTube monaca fantasma. Te l'hanno detto, monaca fantasma Palermo. Palermo, il fantasma della monaca. Questa qui, che ci sono delle persone davvero... Ma perché? Ma chi è che smetta questo computer? Perché io vi picchierei a tutti. Ecco qua. Stacchiamo questo schifezza in sottofondo. No, ne ho rimesso l'altra, come si fa? Oddio. Ecco, l'ho staccata. C'è pure la pubblicità della Renault Clio. Vabbè, vediamo. Sì. Salta l'annuncio, non ci pagano abbastanza. Esatto. Ma che cosa dicono in questo video? Ci fanno l'intervista a delle persone scioccate, come al solito. Ma tu l'hai già vista? Nella chiesa di Santa Maria della Mercede è apparsa misteriosamente la figura di una suora in preghiera. Guardate, in cima alla voi guardatela. Si sorge infatti quello che sembra l'abito di una religiosa intenta a pregare con il capochino. Un'illusione ottica che ha comunque incuriosito i cittadini, convinti che si tratti di Santa Rita e accorsi per scattare foto e girare video che hanno subito spopolato sul web, tanto da suscitare anche l'interesse dei media. C'è chi mormora infatti che siano state chiamate a indagare anche due trasmissioni televisive, Mistero e Voyager. No. Ma la verità è che lo scherzo visivo è palese, soprattutto analizzando le immagini più nel dettaglio. Sono pezzi di muro scrostato. Di notte crea infatti un'immagine che non è altro che parte della campana della chiesa e muro scrostato. Insomma, nessun mistero e nessun fantasma, anche se i meno scettici obiettano che, tra tutte le immagini che le luci potevano creare, non è una coincidenza che sul campanile sia apparsa proprio una suora in preghiera. E poco importa. No, forse non è questa qui, quella dell'intervista è questa, se non sbaglio. La... Metti il volume all'interno così possono ascoltare. Sì, posso ascoltare anche i nostri ascoltatori in studio. Ma queste sono immagini, non sono interviste. No, c'era l'intervista, ho visto, cioè, diceva, no, era santa, ho visto le colombe che gli giravano attorno e si asciugava. E si asciugava le lacrime con le... Picciò, qualcosa di allucinante. Va, dov'è? Fantasma del capo, vediamo. Devo trovare. Un fantasma si aggira per il mercato del capo, è quello di una suora che si affaccia ogni sera dal campanile di questa chiesa. Siamo con Girolamo Isgro, che fa parte della congregazione della chiesa della Madonna della Mercede al Capo da 35 anni. Ma in questo momento nella chiesa può entrare qualcuno? Allora, in questo momento non facciamo salire nessuno. Perché sennò vedrebbero che è il muro scrostato. Che non vogliamo che si dica che c'è il muro scrostato. Questa pubblicità a scopo di lucro. Noi abbiamo l'intenzione di dimostrare la nostra diciamo estraneità ai fatti. È confusissimo questo uomo. Di far venire la gente più competente di noi per vedere. Cioè ti intervista a te lei sì, tu ovviamente ti oppure no. Lei crede nel fantasma della suora della faccia del campanile della chiesa? Sembra Roppolo Telegrass. Diciamo che un pochino sì. Un pochino sì. Pochino. Parte di questa congregazione. Diciamo che un pochino adesso, sì. Con l'avvento della chiesa che è stata chiusa e quindi non si apre più da un bel pezzo, può essere che un ma di che? Ma che cosa? Cosa? Per far capire alla gente che dobbiamo aprire di nuovo la chiesa. Ah, quindi il muro si scrosta per farti capire. La storica chiesa di Sant'Ippolito al Capo, come devono interpretare il prete che parla questa apparizione della suora nel che bell'uomo della chiesa? Beh, io quello che ho detto ai fedeli sin da domenica è quello di stare molto attenti e di essere prudenti. È un cuffaro di altri tempi questo. Queste apparizioni, secondo me, non sono altro che un gioco di luci. L'ha detto il prete! Il prete! Attenti. La gente naturalmente appena sa di qualche fenomeno subito accorre, subito si mette lì ad invocare, a dire Santa Rita o è il fantasma. Ti viene da ridere. E tanto è un uomo di chiesa che prende per il culo i fedeli. È qualcosa di colossale. Di luci, quindi invito tutti alla prudenza e a pregare non lì sotto, ma a pregare nelle proprie case. C'è manco sotto le persone andare in chiesa proprio. È trascritta in casa, tanto il governo. È un prete rivoluzionario. Forse queste sono. C'è una intervista che ho visto le colonne. Guardandolo fa un po' di impressione. Però anche se è una cosa che potrebbe essere non vera, può portare a tante conversioni di persone. Se è un fatto positivo. Va bene. Sì. È dolcissimo. Lei ci crede al fantasma della suora? Certo che ci crede. Macellaio. Io sono un credente, perciò la mia famiglia mi ha incuccato. Mamma cara, mi ha incuccato. Cattolico. Che poi se tu sei credente devi credere a tutto, capito questo? C'è una cosa che esiste e ripeto, per come già l'abbiamo fatto ieri, può essere che questa suora si sta svegliando. Non lo so, forse che si vede che non lo so, dormire per noi commercianti che c'è un mercato e questo mercato sta per finire. Non lo so, qualcosa che vuole riattivare, si vuole fare vedere, dice io sono qua con voi, perché dice ogni sera si fa vedere da noi e ci manda un e scine, ti pigli una cosa. Officino che non si sa si se visto come ce l'ha. Sì, questo tipo io l'ho visto. Sì, ieri sera l'ho vista. Un'immagine l'ho vista, non lo so se era illusione ottica oppure era la realtà. Lei cosa pensa che sia? Essendo credenti ci vogliamo credere. Perché aprirebbero qui? Ci vogliamo. No, non te lo so dire, questo è vicino, sono vicini, si conoscono questi due santi. Che vuoi che ti dica? Ah, sono amici infanzia, compagni di stanza al paradiso. Al paradiso dei santi. Sono coinquilini al paradiso. Inspiegabile, ci ha fatto perciò. Lei ha visto l'immagine della suora che sta tenente Dan? No, direttamente no, ho visto solo qualche immagine su internet, però soltanto quelle riportate. Su che gay secondo me? Ma lei ci crede? Ci vuole, ci sta provando. Credo, credo. C'è un'immagine, che però emozione. Se un fotomontaggio. Un fotomontaggio. Uno scherzo, questo. Un fotomontaggio. Uno scherzo. Però lui è più scettico, diciamo. Sono in tanti già a credere nell'apparizione della suora, ma sono anche moltissimi gli scettici. Siete venuti qui per vedere l'immagine della suora facciata? No, cerchiamo fumo, Tommaso. Sì, però non ci crediamo, quindi comunque è una cosa abbastanza così. Sembra Leonardo Sanzone, cioè, niente di più. Faccio un nome così raro. Strana, però. Ciao Leonardo. Può essere sicuramente un'illusione ottica, senz'altro. Ma tu credi nei fantasmi? No, assolutamente no. Sono restio a credere a queste cose e penso che la gente sia facilmente suggestionabile comunque. Non ci credo. Ma pure una suora! Perché è impossibile. È una suora! Ma cosa è impossibile? Secondo te cos'è allora? Saranno le campane. Le campane. È una suora che non ci crede! Dimmi, dimmi, dimmi. Potremmo fare qualcosa in diretta. Io sì? Telefono a Onorio Abruzzo che in... come dire, ho osservato questa cosa in diretta da Palermo. Vero. Sinceramente potremmo fare un collegamento. Vai, vai, chiamiamo Onorio Abruzzo che vai, è là. Vai, sentiamo. Tommaggio lui in questo momento non lo so, sta facendo sesso magari. Cosa dubito? Sesso dubiti di Onorio, però. Sesso io, sicuramente, però. Sì, mentre tu cerchi di contattare, di contattare. Allora, mio fratello mi stava mandando. Ma lo possiamo anche mettere dopo. Non ci allora, me lo mettiamo dopo. Sì, sì. Va bene. Vediamo se Onorio ci dice che lui ha vissuto questa cosa in diretta. Allora, sì, magari dice come minchia, sì, Onorio. Vorrei prendere risposta. Pronto. In diretta Radio Sisma vediamo l'inviato speciale Onorio Abruzzo. L'inviato speciale Onorio Abruzzo è tra l'altro il presidente di Radio Sisma. Presidente di Radio Sisma, oh, sì, dalla radio, direttamente da Palermo, fa l'inviato speciale nel luogo. Vediamo cosa ci dà. Io mentre devo cercare, che l'aveva pubblicato un mio amico su Facebook, non è Domenico Russo, stai tranquillo, Domenico. Salutiamo Domenico anche un Domenico applauso. È qui un applauso in studio. A Domenico. Abbiamo che un è sempre bel po' studio. Di persone qui in studio. Siamo noi che non siamo mai studio. Domenico, te lo meriti tutto, l'applauso. Avevo trovato questa cosa meravigliosa di questa intervista, che c'era una ragazza picciola tutta truccata, tutta così. Sono venuta perché ho sentito la chiamata. La chiamata. Una cosa di chi? C'è la suora, oh, vedi che affacciato, pronto. Che era una cosa meravigliosa. Qua, questo è bellissimo, ho trovato, grazie. Palermo, appare suora. Grazie Domenico. La suora. Ora parte pure la pubblicità a Renault Clio, capace, vediamo, speriamo di no. Video su, penso che sia. Lì. Palermo suora fantasma sul campanile. Già due settimane che comunque è arrivata una certa ora, spunta questa, cioè, che per me è Santa Rita, perché comunque abbiamo pronto abbiamo Rosario, io sono. Vediamo. Ecco, in collegamento. Sei in diretta. In poche parole, io sono Reo Sisma, volevamo sentire qualcosa riguardo alla suora sul campanile. Tico mi deve essere in diretta. Ti stiamo trasmettendo in diretta. Vediamo se si sente, speriamo. Infatti, sì. Siamo in radio, compa, in questo momento. Oh no, mi senti? Sono Vincenzo. Mi senti malissimo, anch'io ti sento malissimo. Tu però l'hai visto il fatto lì, hai indagato. Ah, rimane un'illusione ottica. Noi stiamo guardando le interviste. Tu, visto che sei a Palermo, lì in zona, non lo so. Quindi tu ci sei stato proprio là sul luogo del fattaccio, diciamo. Fattaccio? È un fattaccio, papà. Perdonami, ma è un fattaccio. Viva voce, si può mettere. C'è il viva voce. Non credo che un cellulare di qui. Ah, c'è il viva voce. Siamo dei geni. Vai, Onorio, così ora ti sentiamo meglio. Si sente che si continua a sentire male. Anche perché viva voce di Dunne, compa. Io qua non sento niente. È dietro. Ci stiamo passato dal tuo. Va bene, ci sentiamo più tardi, ha detto, che in questo momento è impegnato. L'abbiamo beccato in qualche momento sbagliato. Te l'ho detto, magari sto facendo altre cose comunque, più interessanti. Ha detto che comunque era un'illusione ottica, ma ci sono persone che la pensano diversamente. Come era questa tizia? Ho confrontato l'immagine della santa, ci sono molti particolari, adesso ho visto anche col binocolo. Ho visto gli occhi, ho visto il naso. Cioè, per me c'è stata un'emozione bellissima. Perché giusto questa sagoma? Giusto tutti questi particolari. Per me è un'illusione ottica, però. Come? Prima ha detto che era santa. Ma a me veramente mi è arrivato un messaggio di un'amica mia dicendo che si vedeva una santa nel campanile della Madonna Mercedes. Mercedes. La curiosità è donna. E sono andata con mia nuora la premessa per andare a vedere. Comunque vedevo con il binocolo e vedevo la sagoma di questa santa, quello che non suora, lo so. Poi però facendo le foto con la macchina fotografica è venuta perfetta, anche col fazzoletto nelle mani, chinata che pregava il fazzoletto nelle mani. Ho aperto Facebook e ho visto questa immagine, la curiosità, mi sono presentata. Perché tant'anni che, visto che mio papà e mia mamma sono di qua, non ho mai visto niente, dico dopo tanti anni succede questo, voglio vedere. È veramente mio. Fanno delle premesse romanticissime. Tra l'altro sì, ieri sera c'è stata anche una cosa in particolare. Questa qui è. Siamo venuti qua tutti tra amici. Ieri sera c'è stato un soffio di vento strano. Gesa. E delle colombe bianche. In primis tre colombe bianche in primis sono volate intorno a lei. Poi altre tre e poi una. 331, quindi numero satanico. L'immagine si muoveva comunque. Secondo me, ahimè, sono leggende metropolitane. Leggende metropolitane. Un'apparizione che possa essere divina non si manifesta da oggi a domani. Piano piano. Sceglie una persona che possa essere un veggente, non si manifesta agli occhi di tutti. Dire che sia un'illusione ottica, no. Ma lo è, come? Tutto, sia al buio che con la luce. C'è contraddizione micidiale. Io ho parlato personalmente col parlaco e molto col parlaco. La chiesa è molto scettica, perché prima che interviene cioè abbiamo l'esperienza in Magicorretta e quant'altro. No, me lo voglio risentire, abbiamo l'esperienza di Padre Q. In Magicorretta cioè abbiamo l'esperienza in Magicorretta cioè abbiamo l'esperienza in Magicorretta. Ma che cosa dice? Ma non vuol dire nulla. Sì, rimettilo, risentiamo. Parlo in Magicorretta e quanto. Abbiamo l'esperienza in Magicorretta e quant'altro. Magicorretta, ma che cos'è? Meggiugori! Meggiugori! Giusto chi ha? Satana! Così ha detto il padre. È Satana! Gente veramente che ha bisogno di credere, delle apparizioni! Non abbiamo più speranza! Quindi l'esperienza di Meggiugori ci sta in Magicorretta! Magicorretta! Comunque Francesca ci ha lasciato, quindi ti saluto Francesca, no problema, ti ripeto, stai tranquilla. Onorio non è presidente di niente, Onorio Abruzzo. Precisiamo, Onorio Abruzzo è un inviato speciale questa sera, non è presidente di nulla. Grazie per aver risolto il nostro piccolo problema tecnico-tattico. Noi siamo abituati a chiamarlo presidente dalle vecchie... Dalle vecchie dirette. Guarda, il parlare di fattacci fa aumentare gli ascolti in maniera allucinante. In questo momento, Gabriele, guarda, c'è Jim Morrison, è uscito dal quadro e ci sta parlando. Ci sta guardando in questo momento. C'è Jim Morrison, è mio Jim Morrison, spargete la voce. C'è Jim Morrison vivo nel nostro studio televisivo. In questo televisivo, ma che cacchio dico? Vabbè, vi mando un pezzo, così la smettete di ascoltarci. Ci vediamo dopo questo pezzo con Nino Pulziano. Ci vediamo. Ci ascoltiamo. We'll be right back. quindi bentornati in diretta. Bentornati, adesso diciamo che cambiamo, rimetti dopo la stessa canzone. È partita quella. Mettiamo questa in sottofondo, che è più, ancora più figa effettivamente. Diciamo, parliamo... anche perché di qualche secondo. Dimmi Gabriele, di che cosa ci volevi illuminare? Volevo illuminarvi su... Non volevo illuminarvi, semplicemente volevo rendervi partecipi di un video che ci consigliano da Porto Empedocle, di un tizio che parla dei problemi, diciamo, a livello di lavoro, a livello di organizzazione del lavoro a Porto Empedocle. A proposito di interviste a gente scioccata, ci consigliano questo video di questa intervista di Nino Pulsiano, che è un personaggio di spicco della Porto Empedocle, a Ruoppolo Telegras, che è quel telegiornale, quell'importante telegiornale emittente televisiva agrigentina. Quindi sentiamo l'intervista a Nino Pulsiano. Presente e futuro, problemi e prospettive, un dipendente dell'Enel, Antonio Plussiano. Faccio tutti i politici, faccio un ringraziamento a Porto Empedocle, inizio i posti di lavoro, c'è un fratello di scopo, non lo campo io, e alla regione vogliamo la Cainite e il rigassificatore. E ore? A tutti un buon anno, a tutti, per 2008 si è più c'è più posto di lavoro a Porto Empedocle, lavorano tutti mio fratello e tanti padri di famiglia. Questo voglio io. Pure tutti, posti di lavoro a tutti, i giovani, pure anziani, bambini, a tutti i posti di lavoro. Pure sia un buon 2008 migliore. E questo vogliamo a Porto Empedocle, ci sia più lavoro. L'Italia, la gementeria, il porto, tutte. Tutti. E pure tutte cose. E soprattutto vuole che ci lavorano i bambini. È una cosa particolarmente fastidiosa, immagino. Questo era Nino Pulsiano. E poi hanno fatto il remix di Nino Pulsiano, perché questo video ha fatto il giro del web, soprattutto nell'Agrigentino. Mi hanno riferito. E adesso hanno fatto anche il remix di Nino Pulsiano. Io questo non l'ho mai visto invece. Porto Empedocle, tra presente e futuro, problemi e prospettive, un dipendente dell'Enel, Antonio Plussiano. Plussiano. Faccio tutti i politici, faccio tutti i politici, faccio un ringraziamento a Porto Empedocle, inizio i posti di lavoro. Tutto ce lo dobbiamo vedere. È bellissimo. No, perché fa oh. E questo è bellissimo. Dovete vedere, c'è lui che balla, no? Nel video. Tutti, posti di lavoro a tutti, i giovani, pure anziani, bambini, a tutti i posti di lavoro, che sia un buon 2008 migliore. E questo vogliamo a Porto Empedocle. E questo era il mix di Nino Pulsiano a Porto Empedocle. Ma è qualcosa di meraviglioso. Grazie. Questa ce la consigliava Giuseppe Di Stefano da Porto Empedocle. Una persona di cui non posso fare il nome, che vuole rimanere nell'ombra, invece ci manda un altro remix, che è Filippo Di Giovanna, un grande amico dell'associazione, che canta a Santa Margherita per quest'estate, no, Christmas, quindi Filippo Di Giovanna, nostro grande amico. Sulla scia delle cover. Poi guarda che padronanza della scena anche lui. Non so perché mi ricorda vagamente. Ma che cosa squallida, no? Io mi rifiuto di continuare a mandarla, anche perché è triste come cosa, quindi va bene. Mi ricorda Venditti vagamente dalla voce. dal cappello, fondamentalmente. Chissà com'era. E questo vogliamo per Radio Sisma. E questo vogliamo. Lo sai che facciamo? Mandiamo un'altra canzone, visto che già sono le 10:30 e poi dobbiamo lasciare. Come si chiama l'altro programma dove c'è ospite uno degli Alma Negretta? Domenico. Vieni qua, Domenico. Come si chiama l'altro programma? Direzioni diverse. Direzioni diverse. Direzioni diverse tra mezz'oretta. Noi mandiamo un'altra canzone. Poi prima di mandare la canzone, volevo ricordarvi che noi siamo su Facebook. Basta cercare Bazinga Radio Sisma e ci trovate. Mettete mi piace alla nostra pagina di Facebook. Altrimenti morirete tra atroci sofferenze. Esatto. Però quando morirete tra 1 milione di anni, oppure presto, chi lo sa. La cosa bella è che mentre eravamo talmente tanto romantici da continuare a parlare della suora e delle meraviglie della religione, ci siamo dimenticati di controllare Twitter, perché ci ascoltava Picchio, Picci, che non vedo da una vita. E ha anche ipotizzato una cosa interessante, Gabriele. Tu che assieme a noi, a me, a Picchio, a Marco, e a Giovanni, e a Roberto, e a Antonello, abbiamo visto, ci siamo fatti la maratona di Star Wars. Picchio dice: secondo me la suora la fa Giovanni col proiettore. Ecco, guarda, come dargli torto. Questo è pure probabile, non è che... Mentre Marco Meli ha fatto una prova fracchissima di farmi una supercazzola, noi vi continuiamo a dire che purtroppo la puntata di Bazinga finisce qui, perché dobbiamo... Oggi finisce qui perché dobbiamo lasciare la linea a un'altra trasmissione. Adesso ovviamente il radiosisma si è cominciato ad ampliare con la scossa nazionale. Facciamo anche voi, se volete, se qualcuno di voi vuole, giusto, fare un programma, basta contattarci e dare 1.000 euro a me. 1.000 euro. Ah, e c'è pure Vito che ci ascolta. Vito Pisellone 89, Giant. E ci saluto, Vito. Ciao Vito. Ci hai beccato tardi, però. E poi ci ascolta anche Daniele da Elisenbrau a Grau, che di solito ci viene a trovare. Eisenmark a Grau, che penso sia in Svizzera. Sì, compa, e ti saluto, grazie, che ci sta ascoltando anche lui. Vito Davì, Marco Picchio. Non era la supercazza, era la parafrasi del tizio di Meggiugori. Diceva: quel tizio di Meggiugori è come se fosse Antani, diceva. Capito? Suca. Affanculo. Grazie Marco, mi è servito la supercazza da mio fratello su un piatto d'argento. Grazie mille, non esagerare. Vi ho beccati tardi. No, non vi ho beccati tardi, ci sto ascoltando un pezzo. Sei un bacciato. Grazie, potevi dirlo. Potevi prima. Dirlo, ti mandavo una canzone. Ti dedicavamo qualcosa. Ora, non so, parlavamo del tuo pisellone. Invece, già, esatto, invece dobbiamo passare la linea ai nostri. A Napoli. Come vi stavo anticipando prima che mi perdessi nelle mie lucubrazioni mentali, potete anche voi fare un programma radio sotto supervisione, ovviamente, dopo aver visto che effettivamente avete dei contenuti. Basta contattarci e vi daremo tutte le metodologie, vi spiegheremo come fare a fare un programma, vi daremo anche un pezzo di palinsesto. Visto che il palinsesto si sta riempendo, probabilmente dovrete fare lunedì mattina dalle 3 di notte alle 6 di mattina, non lo so, però insomma, fatevi sentire se avete voglia di fare un programma anche voi su Radio Sisma e di mettervi in gioco come facciamo noi ogni tanto quando ci capita. Detto questo, vi saluto su questa bellissima canzone che piace tanto a mio fratello, che tra l'altro è pure quasi finita, quindi speriamo di rivederci presto, insomma, sì, magari venerdì prossimo, sì. Chi lo sa, vedremo quando faremo, vi faremo sapere. Continuate a seguirci su Facebook, su Bazinga Radio Sisma, andate su Facebook, mettete mi piace. Bazinga Radio Sisma, così altrimenti ci arrabbiamo. Esatto, così vi faremo sapere pure quando e se andremo di nuovo in onda presto, insomma. Quindi vi saluto anche dallo studio. A presto dallo studio di Santa Margherita di Radio Sisma. Tanti saluti, tanti abbracci, bacioni, ragazzi. Arrivederci, è questo. Arrivederci e sogni, è questo. Vogliamo per Radio Margherita. Only love. Stai ascoltando Radio Sisma, la scossa culturale.